Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. L'ombra dell'Andrangheta sui lavori di Expo, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 15 milioni di euro riconducibili ad imprenditori del nord Italia e legati alle cosche Aquino Coluccio e Piromalli Bellocco, perquisizioni in Calabria, Emilia Romagna e Lombardia. Preso, Antonio Pelle è stato stanato così, un intercapedine nel muro tra la camera da letto e il bagno. Una delle tante notizie che rivelano legami, legami occulti, legami imprevedibili, legami paradossali tra la malavita organizzata, in particolare tra l'Andrangheta, e cose che comunque hanno una grande visibilità pubblica, una grande enfasi. Immaginate l'Expo, se c'è un luogo più sotto gli occhi di tutti è stata l'Expo, un grande evento super pubblicizzato, attraversato da milioni di persone, di cui si è parlato per un anno, poi si scopre che, almeno si sospetta che nel padiglione della Cina, quanto di più lontano possa essere la possibilità di essere toccato, lambito, amministrato comunque dalla nostra personalità, caratteristica di avere dei centri di malavita organizzati così forti, così tenaci, ci sono le mani dell'Andrangheta. Adesso si parlerà, si indagherà, si farà, ma mi viene da pensare oggi, non voglio tanto entrare in merito a questa notizia che lascio a chi si occupa di cronaca e lascio poi soprattutto a chi darà degli elementi per sapere di più, ma vi ricordo soltanto una cosa, vedete a che punto siamo arrivati, fino a dove è arrivata la corruzione, che ho in mano un libro che inizia proprio raccontando una storia che risale al 1869, quando un signore maggiore dell'esercito, ex garibaldino, deputato nelle liste del Partito Liberale, viene accoltellato a Firenze, pochi passi dalla stazione Santa Maria Novella. Parliamo del 1869. Su questa vicenda, da cui inizia il libro il cui autore ho in ascolto, si capisce, si intuisce che in realtà quello che oggi potrebbe sembrare per noi motivo di stupore che accade attorno all'Expo già accadeva nell'Italia appena fatta da 7 anni, 8 anni nemmeno, che c'erano dei legami fortissimi fra poteri dello Stato, fra connivenza generale e malavita organizzata, e anche in quel caso 'Ndrangheta, perché questo maggiore ex garibaldino ha avuto il coraggio di denunciare un grosso giro sporco in cui 'Ndrangheta mette le mani riguardo al monopolio dei tabacchi. Nicola Gratteri, buongiorno. Buongiorno. Nicola Gratteri, magistrato, scrittore e procuratore di Catanzaro, ha appena pubblicato il suo libro Padrini e padroni, come 'Ndrangheta è diventata classe dirigente, edizione Mondadori. Prima domanda, lei si stupisce della vicenda Expo? Assolutamente no, perché io quando ero procuratore aggiunto a Reggio Calabria intanto avevo detto che l'Andrangheta sarebbe arrivata all'Expo 2015, perché per l'Andrangheta è un fatto di prestigio essere presente in queste grandi opere, non è un fatto solo di guadagno, perché l'Andrangheta è stata presente nella TAV, è stata presente nell'alta velocità, è stata presente nella costruzione dell'autostrada del Sole, è sempre presente nel terremoto dell'Aquila, e noi proprio come procura di Reggio Calabria abbiamo inviato gli atti a Milano, abbiamo inviato le intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva proprio queste organizzazioni dell'Andrangheta che stavano effettuando dei lavori soprattutto nella piattaforma, quella grande, la parte principale proprio dell'Expo, perché sostanzialmente loro lavoravano sotto soglia, sotto i 600.000 euro, e quindi sotto quella soglia non c'era il controllo era blando, quindi c'erano già tante piccole opere che erano di il decumano, quello chiamavano il decumano, il grande, che è stato il centro simbolico emotivo di tutta Expo, di cui lì ci ha lavorato. Ma lei quindi aveva già avvertito prima che sarebbe accaduto questo? Certo. Anni fa, quanto tempo fa è accaduto? Le intercettazioni saranno state di un anno e mezzo fa, 2 anni fa. Ecco, prima dell'Expo, quindi, poco prima dell'Expo. Sì, ma le indagini hanno bisogno di tempo, non basta solo l'intercettazione da fare, ci vogliono poi i riscontri che sicuramente la Polizia Giudiziaria e la Procura di Milano hanno trovato. Secondo lei, le faccio la domanda, poi passiamo la linea. C'è un nesso al fatto che siano proprio i padiglioni della Cina e dell'Ecuador? Ci sono oppure è a caso? No, ci sono stati dei contatti, perché ovviamente la 'Ndrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti, è l'unica mafia che ha il suo cuore, il suo clone che è il locale, e questo locale, come già abbiamo detto altre volte, è un marchio, un brand, è come il marchio McDonald's che in tutto il mondo è uguale, stessa cosa, il locale di 'Ndrangheta è uguale in tutto il mondo con le stesse regole e con gli stessi riti. Quindi la 'Ndrangheta voleva il suo padiglione targato 'Ndrangheta anche all'Expo di Milano? No, voleva essere presente, è stata presente e ci ha pure guadagnato, perché generalmente queste organizzazioni criminali, come anche la Camorra, riescono a fare, ad avere dei pezzi concorrenziali, perché mettono operai sottopagati o non assicurati in nero, smaltimento di rifiuti in modo illecito, quindi gli imprenditori del nord hanno abbracciano queste imprese mafiose che offrono servizi a basso costo. Smaltimento anche degli operai se poi si fanno male. Fermiamoci un istante, Nicola Gratteri, riprendiamo un istante, perché per far capire questo franchising della 'Ndrangheta non è che ce lo siamo inventati oggi, ma esiste da quando esiste appunto l'Italia come Nazione Unita. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Il traffico di droga resta la principale voce di bilancio delle mafie, che in Italia fatturano 35 miliardi di euro ed in Europa un cittadino su quattro fa uso di sostanze stupefacenti. La droga in circolazione è in aumento, così come crescono i sequestri nel nostro paese, e una flessione si riscontra solo per la cocaina. La corruzione dei politici e dei colletti bianchi della pubblica amministrazione. 800 24 00 24. Oggi stiamo parlando dell'infiltrazione mafiosa, in particolare modo dell'Ndrangheta, ma non tanto come elemento costante negli apparati anche pubblici, costante non da pochi anni o da certi periodi della nostra storia repubblicana, ma addirittura dall'inizio, da quando fu proclamata l'Italia come nazione unica, perché il libro di Nicola Gratteri inizia proprio raccontando l'episodio di un personaggio probabilmente di specchiata onestà, un maggiore d'esercito, un ex garibaldino, quindi è come oggi, non lo so, uno che ha fatto la guerra di liberazione, qualcosa del genere, è stato accoltellato, che aveva messo le mani in qualcosa di sporco. Vediamo Nicola Gratteri di creare una sorta di simbolico ponte tra l'attualità, che continueremo a commentare perché mi interessa molto sapere il suo parere, e quello che, con cui inizia il suo libro, un racconto che ci fa veramente cascare le braccia. Noi ci gongolavamo nell'illusione che da un certo punto in poi tutto è diventato cattivo, tutto è diventato corrotto, ma abbiamo davanti un fulgido periodo in cui potremmo dirci immuni, perlomeno agli inizi della nostra proclamazione a nazione, a Stato, ad autonomia, dopo il Risorgimento e via dicendo. Ma quindi è sempre stato tutto insieme? Sì, anche perché poi nel 1869, per la prima volta in Italia, sono state annullate le elezioni amministrative di un comune, cioè Reggio Calabria, perché sono stati alterate le urne, sono state fatte dei brogli elettorali. Dei brogli elettorali. Nel 1869. Poi un altro elemento importante. Cioè, a otto anni dalla proclamazione dell'Italia. C'era il voto di scambio, c'era, anche se non esisteva dal punto di vista normativo. Lei cita la Gazzetta Piemontese che dice: la Calabria in quegli anni è una terra sconosciuta, meno che la Prussia e la Svezia. Esatto, sì, perché era un mondo a sé, cioè non si conosceva, non si frequentava, non si praticava, ci si fermava, come poi dice Levi, ad Empoli, prima ancora di Empoli, a Salerno ci si fermava. Non andavano al mare ancora a quei tempi, quindi. Non andavano al mare. Poi c'è un altro dato, il terremoto del 1905, che mentre io vi dico questo, pensate a quell'intercettazione di quella notte, mentre la gente moriva all'Aquila, i due alle 3 di mattina che al telefono ridevano perché avrebbero fatto affare business sul è accaduto sul anche allora. Anche allora, nel 1905, quando c'è stato il terremoto, poi la picciotteria, ancora non si chiamava 'Ndrangheta, perché inizia a chiamarsi 'Ndrangheta nel 1929, anzi 'Ndrangheta. Questo nel 1905 cosa accade? Accade che il governo Giolitti, in cambio dell'appoggio da parte della borghesia, dell'aristocrazia del tempo, della borghesia agraria, che accentua la natura parassitaria del suo dominio, è stata protetta dal sostegno militare offerto da Giolitti in cambio di una incondizionata fedeltà politica e contro la minaccia della reazione popolare dovuta alla fame. Ma lei sta parlando di una delle persone indicate come un galantuomo all'inizio dell'idea della nostra, diciamo, capacità di interagire attraverso un Parlamento. Anche esatto. Lui era dentro, Giolitti. Certo, certo. Ma noi stiamo parlando di documenti che abbiamo scoperto nell'archivio di Stato di Reggio Calabria. Cioè, il dato è questo. Oggi i libri si fanno o copiando da internet, da Wikipedia, soprattutto, oppure andando a fare ricerche negli archivi di Stato, negli archivi delle corti d'appello o negli archivi storici. E poi abbiamo trovato ancora un altro dato significativo di quel tempo, dove dei parlamentari, dei senatori dell'epoca, stiamo parlando del 1923, per la riabilitazione del capo mafia, tale Michele Campolo, la classe aristocratica, borghese, avvocati, anche il questore e anche i due senatori di Reggio Calabria scrivono delle lettere dicendo che questa persona si era ravveduta, che era una brava persona e che quindi doveva godere della riabilitazione e annullare i precedenti penali. Cioè si mossero dei parlamentari regolarmente, esatto, per riabilitare un mafioso. Per riabilitare un mafioso. Anche nel periodo del fascismo noi abbiamo trovato al tempo della setta degli accoltellatori, che era guidata da Francesco De Stefano, cioè un navo degli attuali De Stefano di Archi di Reggio Calabria. E chi sono? Una famiglia qui? La famiglia dominante di Reggio Calabria ad oggi, nel 2016. Quindi hanno, diciamo, un blasone ben nutrito. Esatto, un pedigree che risale all'Ottocento. Abbiamo tale Giuseppe Surforo, che è notoriamente che ha un ruolo importante nella federazione fascista e ricopre la carica di segretario amministrativo. A quel punto, nel 1933, il fatto è diventato talmente imbarazzante che il Partito Nazionale Fascista, il capo federale Achille Starace, lo ha cacciato dal Partito Fascista. Quindi non esiste un periodo storico in cui si è immuni dalla presenza prima della Pecciotteria e poi dell'Andrangheta. Cambiano gli stili, cambiano i contesti e cambia l'economia, però il fatto storico, il rapporto, la simbiosi tra Pecciotteria, malavita e poi 'Ndrangheta col potere politico c'è sempre stato sin dalla costituzione del Parlamento in Italia. Allora, fermiamoci solo un istante. Io vorrei dire alle persone che ci ascoltano di chiamare all'800240024. Quello che ci dice in questo momento Nicola Gratteri, che è un magistrato, procuratore di Catanzaro, uno scrittore, uno che è dentro l'apparato, non è che lo dice una persona che sta fuori in cima a una montagna e può dire quello che vuole. Lo dice con cognizione di causa perché ha fatto ricerca, ha studiato, ha tirato fuori documenti, ha portato alla luce documenti. Ci dice che in realtà esiste una costante, da quando noi ci chiamiamo nazione, paese, al di là di tutte le retoriche, i racconti, il risorgimento, la patria, gli italiani, i grandi padri costitutori che hanno costituito quello che oggi noi siamo, sembra quasi ci fosse un'età dell'oro in cui erano tutti bravi, tutti buoni, tutti galantuomini, tutti angeli scesi dal cielo, è un'età perversa da un certo punto in poi, che comincia a seconda delle percezioni, delle sensibilità politiche, in cui si è fatto il grande patto scellerato. Ci dice, senza che ci dobbiamo spaventare, uno non deve aver paura delle realtà genetiche che lo compongono, che comunque l'Italia è sempre stata comunque un grande patteggio fra una parte oscura e una parte grigiastra del paese, che poi teneva i contatti con quelle che erano le forze istituzionali. Voi attraverso quali sintomi ne avete avuto sentore? Quali sono stati i comportamenti? Quali sono i comportamenti che coinvolgono tutti noi? Anche io in questo momento, quando esco di qua e dico a Intonti: ti prego, fammi una foto, dai, poi in cambio, che ne so, te lo dico agli amici che sei bravo. Ecco, questo è già un comportamento mafioso, perché non dovrei fare questo. Quali sono i nostri comportamenti, che ormai sono connaturati col nostro modo d'essere, con la nostra abitudine, che fanno sì che confermino questa realtà che ci porta davanti agli occhi in questo momento Nicola Gratteri, che un pochino, senza naturalmente sentirsi responsabili di crimini o di misfatti, abbiamo tutti una sorta di complicità nel mantenere in piedi questo meccanismo. 800240024, a tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Melog, cronache meridiane. 800240024, la domanda che ho fatto al pubblico non richiedeva l'intervento di altri storici, di altri eruditi e di altre persone che mi citano date, mi citano situazioni, mi citano circostanze. No, voglio parlare della vostra esperienza personale. Nessuno si tenga fuori. Quali sono i sintomi di comportamenti mafiosi nella società civile, che è specchio poi anche della politica, visto che siamo tutti bravi ogni volta, a seconda del nostro orientamento, del nostro punto di vista, a puntare il dito contro quella o quell'altra situazione. A dare oggi gli scenari e a parlare di testimonianze storiche c'è già Nicola Gratteri, che ricordo è un magistrato, è uno scrittore, il procuratore di Catanzaro, ha scritto assieme ad Antonio Nicaso un libro, Padrini e Padroni, che è un libro che spiega come l'Ndrangheta è diventata ormai, corrisponde quasi alla classe dirigente, ma non da oggi, non perché è venuto quello o quell'altro presidente del Consiglio o quella o quell'altra forza politica a prevalso. È sempre stato così, dall'inizio, proprio dall'inizio in cui noi, sparpagliato a espressione geografica, siamo diventati un paese a tutti gli effetti. Nicola Gratteri, riprendo un attimo il punto, volevo tornare un attimo a parlare della questione Expo che mi interessa. Secondo lei Cina e Ecuador, che sono paesi che sappiamo benissimo che comunque rappresentano in maniera potente in diversi campi organizzazioni che possiamo assimilare alle nostre organizzazioni mafiose, solo per farci l'idea, anche se poi sono tutt'altra cosa. Secondo lei già sta avvenendo una sorta di patto di livello anche tra le organizzazioni mafiose, o solo pure un caso, perché magari Cina e Ecuador sono quelli che hanno gli imprenditori più propensi a far infiltrare le aziende non controllate? Ma sul piano giudiziario ancora non emerge questo dato. C'è sostanzialmente un collegamento diretto tra le mafie cinesi e quella italiana. Piuttosto c'è un rapporto tra le mafie italiane e le mafie cinesi in Italia. Cioè, i rapporti sono soprattutto per quanto riguarda il riciclaggio, ad esempio in Toscana, con le organizzazioni cinesi che controllano ovviamente tutto il mondo della contraffazione. Allora lì già da tempo c'è questo rapporto, questo collegamento, però sul piano internazionale no, di fatto. Però le indagini non hanno portato ancora a nulla di certo, perché ancora si parla della Cina come un grande colosso imprenditoriale, ottimi rapporti amichevoli, ma non si dice che in realtà i primi a aver stretto i patti diciamo con la Cina sono stati proprio loro, prima ancora di noi. Ma questo ad esempio per quanto riguarda il porto di Gioia Tauro, cioè proprio il Gioia Tauro, dove spesso abbiamo sequestrato, ora i colleghi del Giocalabria continuano a sequestrare decine e decine di container di merce contraffatta, e noi sappiamo che il porto di Gioia Tauro è controllato da almeno quattro famiglie di 'ndrangheta, quattro famiglie di serie A, quattro famiglie dominanti. Ma la roba che si vende poi nei negozi cinesi, esatto, che ormai stanno invadendo l'Italia. Esatto, sì. I prodotti contraffatti che poi vengono venduti arrivano quasi tutti al porto di Gioia Tauro e ogni anno si sequestrano tonnellate e tonnellate di queste merci contraffatte. Mi toglie una curiosità, dottor Gattari, ma mia personale, so perché lei... Sì. Ma è vero, perché sono voci che girano, si sentono, che in realtà gran parte di questo esplodere di farmacie, parafarmacie, di gelaterie, di negozi a denominazione d'origine regionale siano dei grandi meccanismi di riciclaggio? Come funziona il riciclaggio, sì, in questo caso? Sì, anche qui noi abbiamo sempre detto che la mafia è presente dove c'è da gestire denaro e potere, Le farmacie sono un'ottima fonte di guadagno e quindi possono essere anche di riciclaggio. Cioè, nessuno dice che questo sia un rapporto causa-effetto, ma gran parte delle tante farmacie romane sono in mano a famiglie calabresi, questo è noto. Sì, ma, anche e soprattutto in Lombardia. Questo c'è ormai da decenni. O hanno una vocazione calabresi a essere farmacisti? O se No, esistono i calabresi per bene onesti che hanno insegnato al nord a leggere e a scrivere, e questo agli abitanti del nord, e hanno creato la storia della buona amministrazione nei ministeri, ad esempio a Roma. Detto questo, punto, andiamo a capo. C'è una minoranza di calabresi che sono mafiosi sin nel midollo, che gestiscono qualsiasi cosa fanno in modo mafioso, anche se continuano ad essere incensurati, gestiscono la cosa pubblica in modo mafioso. Sentiamo Alberto. Alberto, buongiorno. 800240024, quello vi domando è sapere quali sono i sintomi di comportamenti mafiosi nella società civile, ai quali poi addurre in realtà questa sorta di osmosi fatale che avviene da più di un secolo. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno dottor Gratteri. Quindi possiamo dire che l'Italia è una repubblica fondata sulla mafia. Nessuno ha detto questo in maniera così drastica. Però è quello che è fondamentalmente. Perché gli americani... E la sua domanda qual è? No, la mia domanda è, ma c'è un rimedio a tutto questo? No? Dato che sono anni e anni, decine e decine di anni, è una cosa poi culturale, però è tutto immutato, anzi sta peggiorando. C'è una soluzione drastica. Però se guardi, per quanto può essere drastica la sua soluzione, potrebbe essere quella, diciamo, del nodo gordiano di tagliare e dividere. Se stiamo proprio ragionando, ci sono ormai dei comportamenti generalizzati di cui tutti, anche inconsapevolmente, facciamo parte, siamo complici, la trovo un po' difficile. Poi faccio rispondere a Nicola Gratteri. Chiede Alberto, visto che adesso abbiamo la documentazione che è sempre avvenuto, questo che vuol dire? Che sempre avverrà e sarà fatale questo patto, oppure esiste il rimedio? Nicola Gratteri. Ah, chiede a me. Sostanzialmente il rimedio c'è, ma non penso che l'Italia sia pronta dal punto di vista normativo, legislativo, ad attuarlo. Abbia voglia di rimediare. Esatto, perché non penso che la storia ci ha insegnato che ancora non abbiamo delle maggioranze forti in grado di fare delle modifiche rivoluzionarie o dure, che poi sono delle regole, anche se vogliamo, sul piano procedurale banali, di buonsenso, cioè tipo informatizzare il processo penale, tipo la videoconferenza per fare il processo a distanza, quindi lasciare i detenuti in carcere e fare il processo in dibattimento, oppure quando cambia un giudice il processo ricomincia da capo e quindi dobbiamo sentire di nuovo 40 testimoni che nel frattempo sono stati trasferiti a 1000 km, 500 km. Questi sono i motivi per cui... Cioè una mucillagine che tutto sommato sembra funzionale. Però le faccio una domanda, dottor Gratteri. Sì. Se io devo chiamare a casa un'impresa a ritinteggiarmi le pareti o a cambiarmi i sanitari, devo firmare non so quanti permessi, antimafia. Com'è possibile che il sistema in realtà sulla carta è totalmente controllato, è assolutamente controllato? Com'è possibile poi una cosa così centrale come l'Expo, sotto gli occhi di tutti, capiamo che accade lo stesso che accadeva 30 anni fa quando non c'era bisogno di fare le DIA, i documenti, le antimafia, le aziende e via dicendo? Ma io penso che intanto sull'Expo si è iniziato in ritardo e quindi si aveva fretta di concludere, ma poi soprattutto non era possibile controllare tutti i rivoli dei subappalti o di quelli considerati piccoli lavori rispetto alla grande opera. Quindi tutto il sistema di controllo oggi dell'edilizia, ad esempio, non è sufficiente per garantirsi che non entri la mafia dentro? Perché non c'è il personale per poter controllare tutto. E quindi il mafioso rischia perché sa che il gioco vale la candela. Cioè, superati i freni inibitori, essendo uno spregiudicato, se va in carcere sa che sta poco tempo, se gli va bene guadagna un sacco di soldi, allora tanto vale rischiare. Ha sempre meno da perdere degli altri. Fermiamoci solo un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Io non so dire se sono atteggiamenti che hanno a che fare comunque con l'esplicita connivenza palese che vige da secoli fra istituzioni e potere occulto della malavita organizzata, però l'idiozia che molte volte viene rappresentata con orgoglio, con spocchia, da molti messaggi ai miei ascoltatori, devo dire che mi dà dei segnali molto evidenti che la mancanza di attenzione al mondo che circonda è anche un aggravante rispetto a quello di cui stiamo parlando. Nicoletti, stai a fare la marchetta, questo pseudo magistrato deve vendere un libro. Ma figuranza che a te ha bisogno di parlare da me per vendere un libro, poi vuol dire pseudo, è un magistrato. Però fa bene oggi dire queste cose perché rientra nel giro. Poi un'altra persona dice una cosa veramente ridicola. Povero Mona, società civile? Ne esiste una in civile? Ti hanno comprato e parli come un pirla. Marco, io mi piacerebbe chiamare Marco e dire cosa c'entra in questo momento dire che uno è stato comprato e esiste la società in civile. Stiamo capendo, non esiste società civile. È un concetto a cui siamo molto attaccati, che sono persone che siamo convinti che siano brave persone, le quali vorremmo fidarci, su quali vorremmo affidare la nostra vita, le nostre speranze, e noi stessi molte volte vorremmo che altri affidassero le loro vite, le loro speranze su quello che sappiamo poter fare di meglio. Questa è la società civile. Se poi è un'utopia è un altro discorso, ma stiamo qui appunto a parlare con una persona che ha studiato, non parla di sue sedute spiritiche o cose che ha visto o ha letto attraverso le scie chimiche. È stato, si è smazzato, non so quanti archivi ha guardato Gratteri, tanto per far capire agli ascoltatori. Ma io tutte le ferie le consumo andando negli archivi di Stato, andando nelle comunità per tossicodipendenti, nelle scuole di pomeriggio per parlare ai ragazzi, cioè tutta la mia vita la dedico al volontariato. Cioè questo è un lavoro, quello che ha fatto è un lavoro serio, non è che sei seduto un giorno e dici adesso mi invento un romanzo. No, ma noi questo ce l'abbiamo lavorato un anno e mezzo con il professor Nicasi, un anno e mezzo di ricerca. Questo lo dico alle persone, dicono che semplicemente... Quando l'altra volta ci siamo collegati per parlare del libro sulla cocaina, io per scrivere quel libro, oltre ad aver utilizzato tutte le mie decine e decine di indagini, sono stato una settimana nella foresta amazzonica con l'esercito che combatte le FARC, sono stato in Brasile, in Bolivia, in Perù, non copio di Wikipedia, io vado dalle fonti dirette. Ecco, no, mi dica... Dottor Gratteri, quanto invece è funzionale a quel meccanismo, questa sorta di tumore a lento esito di cui stiamo parlando, questa sorta di qualunquismo, pressapochismo, questa idea che comunque tutti ormai abbiano sotto mano le fonti, basta guardare in internet, sappiamo tutto, continuano a scrivermi ogni giorno, guarda in internet, svegliati, guarda cosa succede. La disinformazione, quanto è funzionale poi a questo meccanismo? Ma c'è molta più ignoranza, noi sappiamo che l'Italia in questo momento purtroppo è noi, è al 156° posto nel mondo per istruzione, non per cultura. La cultura è una fase successiva. Al 156° per istruzione, cioè ci sono paesi dell'Africa più istruiti di noi. E io quando vado a Bruxelles parlo con c'è gente, ci sono ragazzi di 30 anni dell'est europeo, del Lettonia ad esempio, che parlano perfettamente quattro lingue. Io vedo i paesi dell'ex Russia, Unione Sovietica, che sono stati completamente rifatti con i soldi della Comunità Europea, e noi qui non riusciamo a rispendere più del 5% dei contributi europei, e questa l'Italia purtroppo è in noi rispetto all'est europeo. Dovremmo guardare un attimo come hanno rifatto strade, scuole, ospedali e aeroporti nell'est europeo rispetto a noi. Loro sì che hanno saputo sfruttare l'occasione dell'Unione Europea, non noi. E questo non lo dico per fare difese di ufficio. Rosa Lucia, buongiorno. Rosa Lucia. Io volevo intervenire sull'aspetto che diamo, perché secondo me il primo impatto è dei ragazzi a scuola. Cioè, la prima forma che diamo di mafia, diciamo così, è in quello che insegniamo ai ragazzi, ma non con quello che diciamo con le parole, ma con quello che facciamo. Se noi facciamo il progetto sull'antimafia a scuola, ma poi facciamo vendere le pizzette senza lo scontrino, certo, sì. E questo è abbastanza grave, perché il ragazzo lo nota. Se il ragazzo sa che c'è la regola, che so, che non si può andare in gita se non c'è la metà della classe, però poi se una prof o un prof in particolare a organizzare il tutto, puoi andarci anche se sei uno solo... E questa è una forma di mafia, secondo me. Rosa Lucia, perfetto, era questo il tipo di contributo che io mi aspettavo dal pubblico. Giorgio, buongiorno. Giorgio Antonio, allora. Sì, buongiorno. Io ormai vivo in Svizzera, chiamo dal Canton Ticino dove vi ascoltiamo e possiamo anche chiamarvi. Vi volevo ringraziare perché grazie al dottor Gratteri, che faccio i miei complimenti, so chi è e quindi io vengo dal sud. Devo dirvi che questa cosa ce la portiamo dietro anche quando con i nostri cognomi italiani diamo eccellenza all'estero. Ma volevo fare una domanda al dottor Gratteri. Dottore, ma oggi tutto questo, visto che si parla sempre di manovre da fare in questo governo, quanto pesa su ogni singolo italiano questo atteggiamento mafioso? Mi sembra ottima domanda, quanto incide nel PIL poi alla fine tutta questa roba, dottor Gratteri? Calcolo non lo so fare, però incide tantissimo, nel senso che io per motivi di lavoro sono spesso all'estero e quando capito poi in riunioni anche nelle varie nelle ambasciate, quando gli ambasciatori italiani invitano altre personalità, la cosa che mi dicono sempre è che sono sconcertati della lentezza del sistema giudiziario e quindi molti imprenditori sono scoraggiati a venire da noi ad investire. Anche questo è un costo, cioè il solo fatto di sapere che esiste la mafia o di sapere che il nostro sistema giudiziario non funziona, è ingolfato per 3.000 concause contemporaneamente, questo scoraggia e incide negativamente sull'aumento del PIL, sugli investimenti in Italia. Giorgio, sentiamo Giorgio. Giorgio è caduto a Lucilla. Sì, salve Nicoletti, salve a tutti. Niente, io mi sono accorta di questo atteggiamento mafioso, appunto, che non è mafia, ma è proprio l'atteggiamento, come diceva anche l'intervento prima di me, guardando l'Italia dall'esterno. Anche se il termine di paragone non è così forte, perché io parlo di Malta, io a Malta mi ci sono sposata, è una realtà che conosco molto bene, mi ci reggo almeno due volte l'anno e sto per periodi molto lunghi. Ecco, a Malta per andare in un ristorante non bisogna essere raccomandati, l'importante è leggere il menù fuori esposto, ci sono i prezzi. Ed è tutto così limpido, così trasparente. Invece qua da noi in Italia, parlando tra amici, sai dove vuoi andare a cena? Lì, ah sì, ok, chiamo io, ti raccomando io, ti faccio prenotare un bel tavolo, ti faccio trattare bene, ti faccio fare lo sconto. Fermali Lucilla, perfetto, ti faccio trattare bene. Il ti faccio trattare bene è un altro sintomo, io lo scolpirei in lettere d'oro nella tavola delle cose che dobbiamo ricordarci. Il ti faccio trattare bene. Cosa c'è dentro questa frase, Nicola Gratteri? Il ti faccio trattare bene. C'è la mentalità mafiosa, c'è il modo di pensare che anche per un ricovero, anche per una per non fare la fila per un ticket ci vuole la raccomandazione. Quindi sono d'accordo con quello che dice la radioascoltatrice, però vorrei anche dire cosa dice, che Malta non è un'isola felice, che diverse indagini ci hanno portato a Malta dove si fa molto riciclaggio. Questo per far capire che poi alla fine parliamo di atteggiamento, non è che poi nessuno è immune, non esistono i paradisi, non esiste la Svizzera come luogo eccelso in cui si vive bene. Figuriamoci, anche la Svizzera non è che diciamo è sempre... ci sono locali di 'ndrangheta in Svizzera, ci sono organizzazioni radicate della 'ndrangheta in Svizzera presenti in tutti e quattro i cantoni. Quindi non ci facciamo illusioni, è che sono più bravi a fare la cosmesi di tutto questo. Oppure si indaga meno all'estero, ci sono leggi meno efficaci rispetto all'Italia all'estero. Va bene, Nicola Gratteri, ci ha tolto veramente ogni barlume di speranza che esistano paradisi possibili, ma noi camperemo lo stesso e tireremo avanti lo stesso. Grazie del suo contributo, alla prossima.